Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 19 novembre, benvenuti su Liberi Dentro Eduradio TV. Siamo arrivati alla fine della settimana di questo programma che parla sempre tra il carcere e la città, che va in onda però tutti i giorni, un'ora al giorno, su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Do il buongiorno anche ad Antonella Cortese, sempre qui con me in redazione. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Oggi le nostre notizie ci portano negli Stati Uniti. Leggo da Il Riformista in questo articolo a cura di Sergio D'Elia: Stati Uniti, iniezione letale, il metodo ritenuto umano e che invece procura atroci sofferenze. Eh sì, perché dovete sapere che i paesi che hanno deciso negli anni Ottanta, ecco, di passare da metodi fatali per la pena di morte, come la sedia elettrica, l'impiccagione o la fucilazione, alla iniezione letale, che fu introdotta, come accennavo prima, per la prima volta in Oklahoma, in Texas, nel 1982, ecco, l'hanno considerata una specie di conquista di civiltà, ecco, un modo umano e meno doloroso per giustiziare i condannati a morte. Però, chiaramente, ragazzi, la realtà è molto diversa. Caterina, parlare di civiltà e pena di morte sono veramente due cose che non riescono ad incontrarsi in realtà. E ovviamente questi metodi, questo metodo che sarebbe meno cruento, che è appunto l'iniezione letale, ci dici qualcosa in più, perché mi lascia perplessa. Allora, hai ragionissimo, la differenza per questa, diciamo, conquista di civiltà sarebbe più che altro nel tempo di esecuzione, che è molto più breve, meno cruento rispetto agli altri metodi, ma non per questo meno angoscioso. Alcuni prigionieri ci mettono molti minuti prima di morire e altri cadono in una angoscia terrificante. Anche se l'iniezione letale è somministrata senza errori, magari tecnici, e i giustiziati comunque avvertono un senso di asfissia e come se stessero per annegare o per morire strozzati, che certo non è una conquista di civiltà, questo potremmo dire. Dunque, questo basta farci capire come l'idea convenzionale dell'iniezione letale come una morte serena e indolore sia in realtà molto discutibile. Vi faccio solo un esempio. John Grant era nero ed è stato condannato a morte per l'omicidio di un bianco. È stato giustiziato con una iniezione letale nello stato americano dell'Oklahoma il 28 ottobre scorso. I testimoni dei media dell'esecuzione hanno riferito che Grant ha avuto ripetute convulsioni e praticamente ha vomitato per un quarto d'ora prima che gli fosse somministrato il farmaco mortale. Ed è stato il primo detenuto a essere messo a morte da quando una serie di esecuzioni fallite nello stato dell'Oklahoma aveva portato a una moratoria temporanea sulla pena capitale nello Stato. Quindi mi stai dicendo che non è il primo caso, ma è l'esempio di una lunga serie di casi. Purtroppo sì, Antonella, perché ad attirare l'attenzione morbosa, ecco, in questo caso dei media americani, poi c'è anche un altro caso che è accaduto nell'aprile del 2014. Un'altra persona di colore, Clayton Lockett, era rimasto con la bocca aperta e in convulsioni per 43 minuti prima di morire. E il motivo era che un farmaco gli era stato iniettato nel tessuto muscolare invece che nel tessuto sanguigno. Come sapete, forse alcuni lo sanno, l'iniezione letale consta di tre iniezioni. La prima è per sedare il condannato, la seconda per rilassare i muscoli e paralizzare il diaframma e la terza è l'iniezione letale a base di cloruro di potassio che provoca l'arresto cardiaco. E quindi con Lockett che si contorceva per il dolore, l'esecuzione fu annullata, ma ormai era troppo tardi e lui morì sulla barella in una pozza di sangue. Ma c'è anche un altro caso brutale, accaduto nel gennaio 2015. Per uccidere Charles Warner, l'amministrazione penitenziaria ha usato consapevolmente un farmaco diverso da quello previsto, l'acetato di potassio al posto di cloruro di potassio, come vi dicevo prima, come terzo farmaco nel protocollo di iniezione letale dello Stato. L'Oklahoma aveva bloccato l'esecuzione nel settembre 2015, ma la moratoria, di fatto durata solo 6 anni, fino a qualche settimana fa, quando John Grant, 60enne, è stato messo in croce sul lettino dell'iniezione letale. Guarda, quello che stai dicendo veramente fa accapponare la pelle, ma la politica ha mai fatto qualcosa in realtà per evitare queste atrocità? Si è accorta del problema? Ha cercato di porvi rimedio? Guarda, una corte d'appello federale aveva sospeso l'esecuzione di Grant per le preoccupazioni di questo cocktail fatale di droga usato per mettere a morte i condannati del Midwest. Ma la Corte Suprema, divenuta a maggioranza conservatrice dopo le nomine dei giudici decisi da Donald Trump, ha revocato la sospensione all'ultimo minuto e ha permesso che l'esecuzione continuasse solo con tre giudici liberali che si sono opposti. Quindi il crudele fallimento del protocollo dell'iniezione letale dell'Oklahoma, che doveva andare sotto processo nel 2022, di fatto, ecco, è andato all'aria. E invece è prevalsa la fretta di uccidere che ha annullato la decisione della Corte d'Appello. E adesso il Dipartimento di Correzione ha affermato che l'Oklahoma continuerà a utilizzare il protocollo che si è dimostrato, secondo loro, umano ed efficace e che non intendeva modificare le procedure di esecuzione a seguito dell'esecuzione di Grant. Purtroppo, lo devo dire, un altro condannato a morte proprio ieri, Julius Jones, un afroamericano di 41 anni, è stato giustiziato per l'omicidio di un uomo d'affari bianco, sempre con questa modalità. E così la fretta di uccidere non fa davvero distinzioni tra colpevoli e innocenti. Rimaniamo con questa riflessione, ma almeno con la dolcezza sempre di Elton John, Sorry seems to be the hardest word. Ci rivediamo tra pochissimo, sempre su Liberi Dentro. What am I gonna do to make you love me? What am I gonna do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And awake to find that you're not there. What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, with the sad, sad situation. Bentornati sempre su Liberi Dentro di Radio dopo la pausa musicale. Come sapete, il venerdì per noi è il venerdì, come ha coniato Antonella, animalesco, perché oggi ci parli dei... Dei lemuri che sanno cantare, tra l'altro. Perché Caterina, uno studio ha scoperto che esistono altri mammiferi, oltre all'uomo, che hanno ritmi musicali simili appunto a quello degli umani. È uno studio condotto dai ricercatori italiani, francesi e olandesi che hanno trovato queste caratteristiche dopo una spedizione tra i lemuri che vivono in Madagascar, nelle foreste pluviali montane. E il lemur è considerato un po' come l'antenato delle scimmie e infatti lo si può vedere nel suo habitat naturale che è appunto in Madagascar, che ne ha tantissime, ospita un sacco di specie diverse tra l'altro. Sono degli animali molto intelligenti, di cui alcune specie, come il sifaca, si sentono a loro agio anche in presenza dell'uomo. E non è raro che infatti ti vengano addosso se passi da quelle parti. C'è un bellissimo cartone, proprio Madagascar, dove uno dei lemuri è il protagonista. E ti volevo chiedere se ce ne sono di diverse specie di lemuri, per l'appunto. Sì, infatti, come avrei visto anche in Madagascar, nel cartone animato, ce ne sono tanti, se ne contano più di 100 specie diverse, ma potrebbero non essercene anche di più. Ognuno di loro è visibile nello zoo di Tsimbazaza e nei numerosi parchi nazionali, oppure anche liberi in natura, ovviamente. I luoghi dove possiamo vederli sono tantissimi e si possono scoprire ancora nuove specie, e come per esempio una specie riconosciuta non da molto tempo, che è il lemure nano d'Ankarana. Sai perché sono delle specie endemiche proprio nel Madagascar? In realtà, in seguito al distacco del Madagascar dal continente africano circa 160 milioni di anni fa, le proscimmie si sono evolute in maniera isolata proprio perché si era separato dalla terraferma. E il più piccolo, per esempio, il microcebo pigmeo, pensa che pesa appena 30 grammi, mentre i più grandi, che sono l'indri, tra l'altro indri sono quelle che cantano, e lemuri cantanti o cantatori, e il sifaka diadema possono superare i 9 kg di peso. Molto interessante, e ti chiedo se sono animali solitari. Mi hai detto che cantano, ma cantano insieme, vivono da soli, cosa fanno? Come ci insegna Walt Disney, con Madagascar, i lemuri non sono solitari, anzi sono animali sociali, non esistono di rigorosamente solitari, addirittura alcune specie sono anche monogame, penso un po'. Spesso vivono in gruppi abbastanza grandi che contano fino a 30 individui e per alcune specie, come per esempio il lemure catta o quello dalla coda ad anelli, il gruppo rimane unito per un lunghissimo tempo. Per altre invece questo legame di appartenenza può variare di giorno in giorno. Parlavamo all'inizio della ricerca, che può fare un po' luce sulla biologia e l'evoluzione di ritmo e musica condotta appunto dai ricercatori dell'Università di Torino, dell'Università Enel Lab di Saint-Étienne e dell'Istituto di Max Planck di Psicolinguistica. Mentre gli uccelli canori possiedono come l'uomo il senso del ritmo, nei mammiferi questa è una caratteristica molto rara. E così è stato registrato e catalogato, con un dettaglio mai raggiunto prima, il canto dei lemuri della specie Indri del Madagascar. Se vi capita, potete andare anche ad ascoltarlo online, perché proprio ci sono registrazioni dei canti di questa specie. E gli uccelli canori condividono il senso umano del ritmo, ma come vi dicevo, un tratto molto raro nei mammiferi non umani. C'è un interesse di lunga data nel cercare di capire come si è evoluta la musicalità umana, spiega appunto Marco Gamba dell'Università di Torino. Ma questo tratto non è in realtà presente solo negli esseri umani, perché appunto è stato riscontrato anche nei lemuri, oltre che negli uccelli. E cercare abilità musicali in altre specie ci permette di costruire un albero evolutivo di queste caratteristiche e anche di capire come le capacità ritmiche si siano originate ed evolute negli esseri umani. Pensa che il team ha studiato per 12 anni uno dei pochi primati cantanti, quello di cui ti dicevo prima, il lemure Indri, in pericolo di estinzione, tra l'altro. E i ricercatori volevano capire se questi animali possiedono ritmi categorici, che è una caratteristica musicale universale presente nelle culture umane. E che cos'è un ritmo categorico? È quando gli intervalli tra un suono e l'altro hanno la stessa durata. Per esempio, ritmo 1 a 1, o l'uno è il doppio dell'altro, ritmo 1 a 2. Nella musica questo tipo di ritmo rende una melodia riconoscibile, anche se eseguita a velocità diverse. Però restiamo appunto in musica e ascoltando una canzone che viene cantata da Namavao e Marina, Tin Dati, ed è proprio musica del Madagascar. E Caterina, c'è anche l'ultima intervista ad Antonio Merlo dell'associazione Mai Più Solitudine, subito dopo il brano. A più tardi. Thank you. Rieccoci, bentornati, siamo alla fine della nostra chiacchierata per tutta la settimana con noi con Antonio Omero, ospite su Liberi Dentro Duradio. Buongiorno, bentornato. Ciao Caterina e un saluto a tutti i nostri telespettatori, radioascoltatori e a tutti i nostri fratelli e sorelle che stanno nella residenza penitenziaria. Grazie Antonio. Ieri parlavamo di iniziative che in qualche modo si legano anche al carcere. Sì. So che tu sei stato per circa 8 anni giudice popolare in Sicilia per 2 maxi processi. Il giudice popolare in Italia è un cittadino che viene chiamato a comporre le corti di assise e le corti di assise d'appello. Sì. Quindi riveste la qualifica, diciamo, di pubblico ufficiale. Ma in che cosa è consistito questo tuo ruolo e come mai hai scelto di fare questa esperienza? Ma come tutti i cittadini italiani che si vogliono impegnare nell'amministrazione della legge, perché la legge, le sentenze e tutto vengono date in nome del popolo italiano, io sono andato presso l'ufficio del comune e mi sono iscritto nella lista. Poi, avendo i requisiti, fortunatamente sono stato sorteggiato e chiamato a presiedere il primo maxi processo. Una barzelletta, come magari è stata, che sono andato, mi sono insediato, eccetera, ma mai nessuno mi ha chiesto la carta d'identità. Motivo secondo te? Ma ho la faccia da coglione, scusami, non lo so sinceramente. Ho la faccia fiducia. Troppo buona, da fiducia, ecco. Materialmente, quindi in ogni caso 8 anni ho fatto il giudice popolare per 2 maxi processi immensi, dove c'è stato un po' molto impegno, ecco. Anche se il presidente non aveva molta fiducia nel giudice popolare, ci diceva, anzi, che all'inizio ci ha detto che non capivamo nulla della vecchia procedura penale, eccetera, quindi insomma avrebbe fatto tutto lui. Io ho alzato il ditino e gli ho detto: scusi, io ho un voto, ascolto e nella mia semplicità esprimerò il mio parere, se va bene o non va bene. E poi ci disse che se ricevevamo qualche minaccia, qualcosa, dovevamo immediatamente dirlo perché ci avrebbero ricusati. Però da un altro lato non ci davano nessuna sicurezza, tant'è vero che io sono andato al maxi processo anche molte volte con il mio motorino. Capito. Intanto, cercando di mettere insieme un po' i tasselli della tua vita, che lega tante iniziative, tante cose diverse che hai fatto, sì. Perché tu sei anche editore di guide, sì. Culturali. Ecco, so che sempre legato al carcere c'è il progetto La Casa dei Poeti, sì. Un progetto nato nel 99, sì. In un salone comunale, fra l'altro, sì. Ma che in qualche modo fa scrivere le persone dalle camere detentive, vero? Esatto. Tutti possono inviarci le loro poesie alla casa dei poeti @libero.it oppure mai più solitudine @libero.it e noi inseriremo queste poesie nei nostri due gruppi, o le poesie di Omero oppure la casa dei poeti, due gruppi che esistono in Facebook. In ogni caso è una iniziativa da portare avanti nelle carceri perché aggrega, ecco, il mondo delle carceri, le persone sensibili che ci sono in carcere, sono tantissime. Sai, mi stupisce questa cosa, Antonio, del testo poetico, perché in Italia, stando un po' alle statistiche degli editori, librai, sono molto poche le persone che leggono poesie. Si tende più a leggere altro che a leggere poesie e mi chiedo come mai la scelta del testo poetico per partecipare appunto alla Casa dei Poeti. Ma la poesia, come tu sai, poetare vuol dire creare. Quindi il poeta si avvicina più a Dio, alla creazione, e veramente poi dà la possibilità alle persone di non restare soli. Ecco, scrivere, l'importante, come io dico sempre, condividere la poesia, non lasciarla nel cassetto, ma farla conoscere. Quindi, come anche la felicità, la ricchezza, non si può essere felici da soli, ricchi da soli. Tutto va condiviso con la comunità, con il fratello, con la sorella, con gli amici. Po' come l'aneddoto che raccontavi forse tu qualche giorno fa del film Il Postino, dove sì, a un certo punto il protagonista si impadronisce di una bellissima poesia e alla fine dice sì, me ne sono impadronito perché la poesia è di tutti, non è di chi la scrive, ma alla fine è un patrimonio culturale. È un egoista che dice che la poesia è sua, la poesia è di tutti, il sentimento bello, positivo è di tutti, l'abbraccio deve essere di tutti, se no restiamo persone sterili, esseri che non hanno senso, ecco. Ho scritto anche un romanzo che si chiama Senza Senso. E allora, rimanendo in questo abbraccio poetico, io so che anche tu scrivi poesie, sì, ce ne dedichi una, ti va di leggercela? Sì, si intitola Quanto siamo buffi. Quanto siamo buffi quando ridiamo, mangiamo, piangiamo, quando viviamo con ritmo preciso, instancabili e spersonalizzati, godendo del rumore che ci assilla, gridando al vento la miseria della nostra gioia falsa. Quanto siamo buffi quando ci guardiamo smarriti negli autobus stracolmi di ammassi di carne, quando corriamo veloci uno dietro l'altro, lenti, lenti, lenti, e formiamo file interminabili di metallo variopinto e nervoso. Quanto siamo buffi quando ci viene voglia di parlare, di pregare, di deridere, e ci affatichiamo tanto nel voler avere sempre ragione, nel volere apparire sempre i più eleganti, i più simpatici, i più colti, i più malvagi. Quanto siamo buffi quando non ci accorgiamo che il tempo ci invecchia, il sole ci brucia, la pioggia ci bagna, il vento ci scuote, quasi per volerci dire: uomini, amatevi l'un l'altro, voi credete di valere tanto, ma non vi accorgete di essere così piccoli davanti a Dio. Pensateci, uomini, non lasciatevi uccidere dalla vostra presunzione. È molto bella e mi piace la scelta dell'aggettivo buffi per descrivere la nostra limitatezza in qualche modo, la nostra goffaggine. Brava! In certi casi, però buffi è più carino. Sì, buffi, e anzi faccio una cortesia all'uomo, perché l'uomo è veramente a volte puntini puntini nei confronti della natura, non ha rispetto per nulla, è uno schifoso individualista, per cui invece dobbiamo essere più uniti, più aggregati, più fratelli. Dove ti è venuta l'intuizione per scrivere questo testo poetico? Ma a dire la verità, questa poesia l'ho scritta a 18 anni, alla fine un po' quasi del mio liceo classico. Niente, la poesia viene per ispirazione. A volte viene anche per sofferenza, a volte viene per gioia, eh? Ma il poeta è un tenerone, è una persona, ecco, io sono sempre di quell'avviso, l'essere umano andrebbe accarezzato di più, come diceva Steiner, che tu hai studiato sicuramente, no? Le famose strokes in inglese, non bastonare, ecco perché quando i governi bastonano il popolo sbagliano, quando l'uomo bastona un altro uomo sbaglia, bisognerebbe accarezzarsi di più. Ecco, una carezza anche psicologica ovviamente. E noi ti ringraziamo per questa carezza che ci hai fatto con questa bellissima poesia, e siccome l'ultimo brano l'hai scelto tu, sì, dici come mai l'hai scelto. Mia Martini con... Almeno tu nell'universo. Da ricordare un po' il testo, che questo Almeno tu non è rivolto ad un uomo, ad un amore, ma è rivolto al suo pubblico che lei ritrovò dopo tutte quelle malignità che dissero sul suo conto. Grande Mimì, Almeno tu nell'universo. Grazie Antonio, ciao, a presto. Ciao a tutti. Ciao. Cambia idea improvvisamente, forse troppo soddisfatta. E segue il mondo ciecamente. E quando la moda cambia, lei pure cambia continuamente. E anche oggi siamo arrivati ai saluti di fine puntata. Vi ricordo le nostre rubriche, oggi parliamo di A Seguire. Abbiamo oggi che venerdì Islam, religione e civiltà, per la ricorrenza della nascita del profeta, e poi Cefal con i mestieri legati al mondo dell'igienizzazione degli ambienti. Ma anche domani le nostre rubriche non vi abbandonano, abbiamo le parole chiave con l'arcivescovo Matteo Zuppi di Bologna, parliamo di buddismo con l'intervista al venerabile Seyun, fare università in carcere con l'intervista a Claudio Marra, docente di storia della fotografia al DAMS di Bologna, e poi A Seguire calcio galeotto con Monica Franzoni, che per UISP Reggio Emilia si occupa di mobilità del corpo, attività di artigianato e artistiche e sport, chiaramente. La domenica siamo sempre con il FOMAL, un laboratorio musicale questa volta anziché di cucina, e poi A Seguire tornano Franco Bonisoli e Laura Russo con Yoga Ratna, un percorso di libertà. Grazie e ci rivediamo noi con Liberi Dentro e Duradio Buongiorni lunedì prossimo. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.